Purtroppo non ci sono buone notizie come temevamo quando erano state, diciamo, varate le linee guida per l'attuazione di quello che viene chiamato il gender procurement, cioè vale a dire la previsione di quote occupazionali dedicate alle donne, all'occupazione femminile e giovanile per persone con disabilità. Era previsto che almeno il 30% degli appalti derivanti dai fondi PNRR prevedessero questo tipo di quote occupazionali. Purtroppo quello che è venuto fuori è che nel 68-69% dei casi queste quote occupazionali non sono state applicate, solo il 29% è stato applicato, quindi questo ci dà già una mole informativa importante perché praticamente i due terzi non la applicano, e inoltre non sono state quasi mai applicate neanche le cosiddette misure premiali, cioè il fatto di assegnare dei punteggi in più alle aziende quanto riguarda la valutazione delle gare d'appalto che prevedevano, che rispettavano una serie di criteri per la parità di genere, come per esempio la parità salariale all'interno dell'azienda fra uomo e donna, la possibilità di azioni di condivisione del lavoro di cura. In quel caso il 96% non ha sostanzialmente previsto le misure premiali, quindi i dati ci danno delle informazioni molto nette. Oltretutto un aspetto importante che ci teniamo a sottolineare è che nelle missioni PNRR ha 6 missioni, ci sono 2 missioni principali in termini di fondi economici, cioè più della metà, il 52% è destinato a 2 missioni in particolare: la transizione ecologica e la digitalizzazione e l'innovazione. Queste 2 missioni insieme fanno il 52% dei fondi. Ebbene, entrambe le missioni, sia per le quote occupazionali femminili, giovani, persone disabili, sia che per le misure premiali per la parità di genere, sono all'ultimo posto. Quindi questo vuol dire che non c'è neanche una trasversalità nell'utilizzo di questo, per le missioni, di questo tipo di misure, e quindi purtroppo sono concentrate anche non dove ci sono la maggior parte dei fondi, sono più concentrate dove è già presente una maggioranza di occupazione femminile, come per esempio la sanità, l'inclusione sociale. Questo ovviamente non fa altro che mantenere una sorta di segregazione a livello di genere per quanto riguarda le occupazioni, quindi c'è ancora molta strada da fare per effettivamente garantire una maggiore trasversalità. Ci tengo a precisare, la segregazione per noi non vuol dire solo favorire le donne per esempio nelle STEM, ma vuol dire anche favorire maggior presenza di uomini nei lavori di cura. Sono due facce della stessa medaglia. Ma avete avuto modo di capire se è un problema solo dei progetti italiani o riguardano anche altri paesi europei? Ci sono delle specificità che riguardano l'Italia, innanzitutto il fatto che noi siamo il paese con il maggior ammontare di fondi, altri paesi hanno molti meno fondi. Diciamo che un paese simile a noi per tante caratteristiche, che ha chiesto anche più ampio numero di fondi, è la Spagna. La Spagna ad esempio ha scelto di concentrare le misure per la parità di genere insieme, non di renderle trasversali. Diciamo, da un lato il principio della trasversalità è giusto, il problema è che è uno dei punti che abbiamo sollevato all'incontro al Parlamento Europeo con delle parlamentari, l'incontro è stato ospitato dalla vicepresidente Pina Picerno del Parlamento Europeo e da membri della Commissione Europea, è stato proprio quello che non abbiamo degli indicatori per misurare questa trasversalità, quindi il grande rischio e l'appello che abbiamo fatto è che senza richiedere al governo italiano di rendere espliciti gli indicatori di genere per tutte le 6 missioni, rischiamo che questa trasversalità annunciata e promessa rimanga solo sulla carta, e questa è la grande sfida che bisogna cercare di recuperare nel più breve tempo possibile, perché altrimenti arriveremo presto al 2026 e rischiamo di non avere l'impatto previsto, anche perché già a monte, cioè dall'inizio di questo PNRR, stime del Ministero dell'Economia e Finanze dicono che dei 191 miliardi del PNRR solo l'1,6% è per misure dirette per la parità di genere, quindi già solo questo dato ci dà una, diciamo, una misura dei grandi rischi che abbiamo se non monitoreremo l'attuazione della stragrande maggioranza dei fondi e non ci sarà una cura nel verificare che ovviamente gli indicatori di genere siano trasversali a tutti i progetti e le missioni, altrimenti questo impatto non ci sarà e perderemo una grande occasione per chiudere i divari di genere del nostro paese.